America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Siamo ormai entrati nella settimana del Natale. Come vi ho detto, voglio dedicare queste ultime puntate dell'anno a un riassunto degli eventi più importanti del 2012 e direi che oggi, il giorno in cui partiamo con questa carrellata 2012, non possiamo che partire con le elezioni americane. Sono state certamente il motivo dominante dell'anno, a partire dalle primarie repubblicane per poi arrivare alle convention e al confronto diretto fra Barack Obama e Mitt Romney, il prescelto repubblicano, fino alla rielezione di Obama a novembre. Ma facciamo un passo indietro, perché vi ricordate l'inizio del 2012? Tutti dicevano che Mitt Romney era già emerso come grande favorito nella corsa repubblicana e a gennaio aveva già intascato due vittorie in Iowa e New Hampshire, anche se poi l'Iowa l'avrebbero dato dopo a Rick Santorum. Ci fu poi la grande esplosione di Rick Santorum, questo italo-americano con questa storia straordinaria che improvvisamente sembrava venire fuori dal nulla. E dunque cosa succedeva? Succedeva che tutti i leader della destra, schierati alla destra di Mitt Romney, storgevano un po' il naso, perché dicevano che non apparteneva a loro, le sue posizioni erano troppo centriste, era un ex governatore del Massachusetts, dunque un po' di sinistra, faceva delle gaffe. Ecco, sulle gaffe si è cominciato a capire che Romney forse in quel percorso poteva avere qualche problema. Sentiamone alcune. America 24. 2 febbraio 2012. I'm in this race because I care about Americans. I'm not concerned about the very poor. We have a safety net there. If it needs a repair, I'll fix it. Mitt Romney, abbiamo visto ieri come ha vinto con grandi margini la Florida, eppure avete sentito che ha fatto l'ennesima gaffe. In una intervista televisiva ieri pomeriggio ha detto: non mi preoccupo dei poveri. Oddio, lo ha messo in un contesto, ha detto: non mi preoccupo dei poveri perché hanno una loro rete di protezione, semmai se ci saranno dei buchi, la riparerò. Non mi preoccupo dei ricchi perché hanno i soldi e stanno bene, mi preoccupo della grande America, della classe media americana. Non è la prima volta che Romney fa una, diciamo, gaffe di questo genere. Sentiamo alcune delle altre. It also means that if you don't like what they do, you can fire them. I like being able to fire people who provide services to me. Qui ha detto: a me piace licenziare la gente. And then I get speaker's fees from time to time, but not very much. Qui dice che un guadagno di circa 360 mila dollari per interventi, per conferenze, per discorsi, per lui è una bazzeccola. Certo, in effetti ne ha guadagnati 22 di milioni di dollari grazie a guadagni di capitale, però 360 mila dollari è pur sempre 6 volte il reddito medio di un americano e dunque non è certo una bazzeccola. E poi a un certo punto, in un dibattito con Perry, gli ha detto: ma io con te scommetto 10.000 dollari, come se fossero spiccioli pronti per essere spesi in tasca. You know what? You've raised that before, Rick, and you're simply wrong. It was true then. No. It's true now. Rick, I'll tell you what. $10,000? $10,000 bet? Ecco, dopodiché, devo dire, questo l'ho sempre detto, Romney era un uomo molto stabile, un uomo di grande equilibrio, che procedeva per la sua strada senza occuparsi troppo di fanfare, di contorno, e quindi è andato avanti senza battere ciglio, ed è finita che uno dopo l'altro ha eliminato i suoi concorrenti. Il primo a cadere è stato Rick Perry. America 24. 20 gennaio 2012. I have come to the conclusion that there is no viable path forward for me in this 2012 campaign. Rick Perry, il governatore del Texas, il grande gaffeur, si è ritirato. Ricordiamo alcune delle sue gaffe. Aveva detto che la Turchia deve uscire dalla NATO, aveva detto che avrebbe usato i droni predatori contro gli immigrati, aveva detto che non era il caso di criticare così duramente questi poveri Marines che si sono divertiti nell'urinare sui cadaveri dei talibani. Insomma, ne ha detto un po' di tutti i colori. È uscito, ci mancherà, devo dire, perché in qualche modo era un po' un divertimento. Poi è stato il turno di Rick Santorum. America 24. 11 aprile 2012. Well, this presidential race for us is over for me and we will suspend our campaign effective today. We are not done fighting. Rick Santorum, ha chiuso la sua corsa per la nomination repubblicana. È un candidato che esce da questa campagna testa alta, devo dire. Ho cercato, ha detto, di portare in questa campagna ciò che Abraham Lincoln portò sul campo di battaglia del 1863, parlando dei valori fondamentali di questo paese, come la libertà e la consapevolezza che tutti gli uomini sono uguali, e noi non potremo andare avanti come grande paese se non ci ricordiamo chi siamo e che cosa ci rende americani. Infine il più tenace, Newt Gingrich, quello che voleva fare il duro, che pensava di potercela fare fino all'ultimo, ha resistito fino al 2 maggio, ma poi se n'è andato anche lui. America 24, 3 maggio 2012. Today I'm suspending the campaign. But suspending the campaign does not mean suspending citizenship. Newt Gingrich, avrete riconosciuto la voce, sarà forse una delle ultime volte che l'ascolterete. Newt Gingrich ha detto che lascia ufficialmente, aveva anticipato la settimana scorsa questa sua uscita, e qui dice: oggi sospendo la mia campagna elettorale, questo non significa sospendere i miei doveri di cittadino, io e Callista continueremo ad essere cittadini impegnati, lo dobbiamo all'America, continueremo a lottare con tutti voi per far sì che il ventunesimo secolo sia il terzo secolo della libertà e dell'eccezionalismo americano. Poi la grande festa delle convention, prima quella repubblicana a Tampa, in Florida, poi quella democratica a Charlotte, il trionfo di Barack Obama, che ha avuto l'appoggio, lo ricorderete, in discorsi straordinari di Bill Clinton, il discorso bellissimo di sua moglie. Poi lui però non era sembrato tanto, come dire, brillante, non sembrava al massimo della sua forma. Mitt Romney aveva fatto un buon discorso, la convention repubblicana non era stata una delle migliori. Comunque, archiviate le convention, poi siamo arrivati al confronto diretto, e questo Obama un po' pallido della convention lo abbiamo ritrovato, lo ricorderete, nel primo dibattito televisivo. Riascoltiamolo. America 24, 4 ottobre 2012. I just don't know how the president could have come into office facing 23 million people out of work, rising unemployment, an economic crisis at the kitchen table, and spent his energy and passion for 2 years fighting for Obamacare instead of fighting for jobs for the American people. Romney al dibattito di ieri sera, lo avete sentito, diretto, deciso, senza troppi fronzoli, attacca Barack Obama e dice: semplicemente, signor Presidente, non mi spiego come con 23 milioni di disoccupati e una crisi economica in corso, lei al suo ingresso alla Casa Bianca abbia potuto investire tutte le sue energie in Obamacare invece di creare posti di lavoro. È quello di cui io mi sarei occupato, di creare posti di lavoro. Beh, in politica non tutto è scontato, per una volta le carte si rimescolano, come è successo appunto ieri notte al primo round dei dibattiti elettorali per la Casa Bianca, quando Mitt Romney, lo avete sentito, presidenziale, determinato, si è aggiudicato una vittoria schiacciante contro Barack Obama. Il candidato repubblicano, c'è da dirlo, ha vinto contro ogni aspettativa, mettendo il presidente sulla difensiva, riuscendo a dominare il dibattito, smentendo Obama su certe sue posizioni e chiarendo allo stesso tempo che cosa avrebbe fatto su temi chiave come tasse e sanità. Il risultato? Direi che soprattutto all'inizio Obama è apparso esitante alla ricerca delle parole, persino dei fatti, mentre Romney non perdeva un colpo. Sentiamolo di nuovo. Under the president's policies, middle-income Americans have been buried. They're just been crushed. Middle-income Americans have seen their income come down by $4,300. Ecco, avete sentito di nuovo Romney che reagisce quando Barack Obama lo accusa di voler diminuire le tasse per i ricchi e di voler penalizzare la classe media. E Romney reagisce dicendo che è sotto la presidenza Obama che la classe media è stata schiacciata, proprio la classe media. I ricchi, dice Romney, staranno bene comunque, sia con le tasse più elevate che con le tasse meno elevate, ma l'americano medio ha visto una caduta del suo reddito di $4,300 e ha subito una tassa su che cosa? Io la chiamo la tassa dell'economia, dice Romney. I prezzi della benzina sono raddoppiati, i costi dell'energia elettrica aumentati, dei generi alimentari, dell'assistenza medica, tutto a rialzo, e dunque è la tassa dell'economia. Obama.